ha cominciato a così, siamo sollevati dell'iPad, immagino il vostro. Ah, ecco, l'ha detto una volta già. Cioè ha cominciato con l'iPad, cioè usa l'iPad. No, l'iPad è uno strumento, io trovo l'iPad e poi tutti quelli che adesso verranno sul mercato, perché non vogliamo mica fare pubblicità. Vabbè, tanto l'iPad ormai si usa come brand, così. È uno strumento interessante, no? Perché ecco, ma Berlusconi, scusi un attimo Palmieri, Berlusconi. No, Palmieri sull'iPad. Ecco, lo usa quotidianamente l'iPad, Berlusconi? Come? Lo usa quotidianamente l'iPad? Come ho detto l'altra volta, io sarei da cittadino così non molto contento se il Premier stesse tutto il giorno su internet. Ma no, ma quotidianamente intendo nei momenti in cui lo usa quando ne voglia, quando gli serve. Comunque lo sta usando. Si sta impratichendo.